Siamo qui, caro Parenzo, in collegamento da Roma. Abbiamo ancora l'onorevole Lopresti, se non sbaglio, no? Sì, Lopresti, pronto? Sì, eccomi. Eccoci, come sta? Lopresti, grande Lopresti. Lopresti, Nino Lopresti, segretario amministrativo di Futura Libertà, che vuole sfidare Belpietro dopo la pubblicazione. Quante mail le sono arrivate a lei, Lopresti? Guardi, non le ho contate perché non le apro nemmeno, quindi non me ne frega proprio. Perché non le apre? Perché non mi interessa vedere gli insulti o i complimenti, ma molte sono di insulti, molte sono di complimenti, ma proprio com'è che si dice a Roma? Non me ne può fregare di meno. Proprio non gliene frega niente. In palermitano, come si dice? Perché sono tutte mail indotte, ovviamente, da questo attacco sconsiderato che ha fatto Libero. Senta, Lopresti, ma invece lei dove è? Di Palermo? Esatto. In palermitano, come si dice, non me ne può fregare di meno? Non me ne fotte una minchia. Ah, così proprio, secco. Proprio, in palermitano, lei me l'ha chiesto, io evidentemente sono stato costretto a rispondere. Però scusi un attimo, Lopresti, no, lei è stato così, ha fatto benissimo a rispondere, non è che è stato costretto, è stato... A me la chiarezza è una cosa che mi piace da morire, per cui tanto di cappello, sì. Lei ha detto, non me ne frega, com'è che si dice, non me ne fotte una minchia, allora glielo dico io, perché sennò magari lei è imbarazzata a ripeterlo per la seconda volta. Perché no? Lei me l'ha chiesto, io sono molto molto franco, prego, e allora, eccomi qua. Per carità, hai capito Parenzo? Molto chiaro, però è anche vero, Lopresti, lei dice non me ne può fregare di meno, o detto in palermitano in un altro modo. L'ha già ripetuto tre volte, gli ascoltatori potrebbero infastidirsi. Ha ragione, Lopresti. Però non mi pare che non gliene può fregare di meno, perché invece ha sfidato Belpietro a duello. Cioè, questa è un'altra cosa, questo è l'aspetto, diciamo... conseguente a quello che è stato l'attacco frontale del giornale. Io che sono un cittadino come gli altri, anche se parlamentare, non ho alcuno strumento per poter reagire a due prime pagine di giornali con la lettera traditoria e l'incitamento a scrivere traditori. L'unico modo per poter in qualche modo Lei come lo definisce questo attacco? Mi scusi. Noto il mio disagio, il mio disappunto e il mio dispiacere per questa cosa è stato quello di inventarmi un'ipotesi di duello, tant'è che voi oggi mi state intervistando.